America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Nulla di fatto sul fronte del disavanzo pubblico americano, non c'è stato l'accordo che le parti politiche hanno cercato di trovare ieri durante un incontro alla Casa Bianca, l'ennesimo incontro alla Casa Bianca. Dunque preoccupazioni soprattutto per quelle che saranno le reazioni degli investitori. Gli indici di borsa americani sono al ribasso in questo momento, l'oro è schizzato al rialzo, siamo oltre quota 1640 per l'oncia e dunque si cercherà di evitare che cosa? Beh, di evitare il rischio del default. Su quello credo di potervi rassicurare, non ci sarà un default degli Stati Uniti d'America, però l'accordo mancato per ora almeno sul disavanzo pubblico potrebbe procurare che cosa? Beh, il famoso downgrading degli Stati Uniti, e questa non è una bella notizia, ma oggi ci occupiamo d'altro. Questa musica, questa canzone tradizionale, questo lamento, è un lamento che avviene attorno a un fuoco, attorno a un falò di notte, con il quale uno degli anziani della tribù degli Sioux, in particolare dei Lakota, dà il benvenuto a chi arriva. Ebbene, chi è arrivato? È arrivato un italiano. Abbiamo parlato più volte nelle nostre trasmissioni di italiani che vogliono fare delle avventure in America. Abbiamo sentito il nostro camionista Facchinetti che vuole venire a fare il camionista qui. Ebbene, Marcello Micheloni di Modena, giornalista, pubblicista, ha deciso anche lui di venire in America, ma di farlo in modo originale, e cioè di stare con gli indiani. È con noi ai microfoni di America 24 in diretta dalla riserva indiana dei Sioux nel Sud Dakota, dove si trova. Buongiorno. Buongiorno. Intanto ci racconti, perché è abbastanza straordinaria questa storia. Lei è in una tribù indiana. In questo momento sì, mi trovo nel cuore della riserva di Pine Ridge, ospite di alcuni indiani Sioux. Ospite di alcuni indiani Sioux vuol dire che hanno una casa, immagino, non penso che vivano nelle tende, no? Ci racconti un po' come è sistemato. Naturalmente gli indiani di oggi non vivono più nei tipi che abbiamo visto e conosciuto dal cinema. Quelli che mi ospitano, ad esempio, vivono in una casa costruita da volontari, creata con condizioni di edilizia sostenibile davvero adeguate e moderne. Direi di fare una piccola parentesi, perché lei è nella tribù dei Sioux, esatto. Però sappiamo che ci sono una gran quantità di tribù di indiani molto diverse. Il Massachusetts, per esempio, uno degli stati più conosciuti in America, Boston, Harvard, MIT, ha preso il nome da una tribù locale. Il totale della popolazione di indiani d'America è di 2.843.000 persone. La popolazione totale degli Sioux mi pare che sia intorno ai 150.000. Quanti sono nella sua riserva? Qui sono circa 60.000. E dunque questa riserva è delimitata come territorio? Cioè c'è un cancello dove si entra? C'è scritto riserva indiana? Per entrare nella riserva c'è una semplice indicazione, insomma, il classico segnale stradale come quelli che delimitano gli stati americani l'uno dall'altro. Non c'è nessun cancello, non c'è nessuna restrizione, si può entrare ed uscire senza problemi. Senta, lei è venuto in America per stare con gli indiani. Cos'è che l'ha motivata a venire da questa parte dell'Atlantico? Una grossa curiosità. Io sono un appassionato di cinema e quando ero ragazzino mi colpì parecchio una frase di mio padre, che anche lui è appassionato di film western, mi disse: ma non riesco a capire perché una volta vedevamo questi indiani che erano tutti cattivi e adesso, riferendosi a Balla coi lupi, alla nuova generazione di film, sono diventati tutti buoni. Quella frase mi colpì parecchio, nacque una passione, sono venuto a verificare di persona. Allora, Balla coi lupi, cosa le riporta? Le memorie delle chiacchierate con suo padre? Che emozioni prova mentre è in questo momento in una riserva indiana? Faccio un applauso telefonico al direttore della fotografia di Balla coi lupi, perché quello che si vede sullo schermo, sul piccolo grande schermo di quel film, sono gli stessi colori, le stesse immagini che vedo io in questo momento dal finestrino della macchina da cui sto parlando, quindi davvero un bel film che racconta bene questa terra. Lei sceglie di dare corpo a questo suo sogno giovanile tratto da un film per venire a vedere in modo concreto di che cosa si tratta. Perché ha scelto gli Sioux? Sono probabilmente la tribù simbolicamente più importante tra quelle dei nativi americani. Qui vicino, a poche miglia, c'è il paese di Wounded Knee, che è ricordato dai libri di storia come l'ultimo grande massacro perpetrato ai danni dei nativi. Quindi simbolicamente i Sioux credo che rappresentino qualcosa di speciale all'interno della comunità dei nativi americani. Ecco, diciamo anche che fra i Sioux ci sono Toro Seduto, Cavallo Pazzo, alcuni dei grandi capi indiani di cui tutti hanno sentito parlare e che credo tutti in qualche modo conoscono. Ci può raccontare qualche avventura, per esempio, di Toro Seduto, visto che è un Sioux e lei si trova lì dove Toro Seduto viveva, quindi è una cosa piuttosto emozionante. Toro Seduto ha partecipato in prima persona a un'altra battaglia che è rimasta nell'epopea americana di cui parlavate prima, quella del Little Big Horn, che in uno stato vicino, non è nel Sud Dakota dove mi trovo io, quella dove praticamente il generale Custer e il suo esercito vennero sconfitti da un'alleanza tra appunto i Sioux di Toro Seduto e i Cheyenne, per quell'occasione alleati contro i bianchi. Ecco, vorrei aprire una piccola parentesi, perché in una chiacchierata che abbiamo fatto quando ci siamo sentiti poco prima di andare in diretta, lei ha anche detto che avrebbe lavorato un pochettino anche per noi, e difatti abbiamo già qualche cosa sul nostro sito America 24. Ogni giorno lei ci farà un post raccontandoci che cosa succede nel momento in cui ci si trova in una riserva indiana. Ecco, ci dica che cosa ha fatto oggi. Oggi abbiamo cercato di contattare quello che è stato il più giovane presidente di tribù della storia di questa riserva. Mi spiego, non esistono più i capi indiani, almeno per quanto riguarda il Sioux, ovvero per quello che conosco io. Ci sono presidenti che vengono eletti dalla comunità. Oggi siamo stati alla ricerca di questa persona, purtroppo non l'abbiamo trovata, spero di poterlo fare nei prossimi giorni perché ho tante cose da chiedergli. Immagino che lei, ovviamente, essendo appassionato di indiani, conosca molte storie degli indiani. Vorrei raccontarne un paio mie, personali, che mi hanno molto colpito. Una volta mi sono trovato in New Mexico, vicino a Santa Fe, in un ranch piuttosto grande, di quasi 1200 ettari, e andando in questa jeep, in questa specie di semi deserto con delle montagnole, c'erano degli strumenti, dei suppellettili, e ho scoperto che erano delle cose che erano appartenute a una tribù che si è estinta, la tribù degli indiani Nastase. Ci sono poi appunto le tribù degli Shinnecock, come dicevamo poco fa, quella dei Massachusetts, e così via, così via, i Cheyenne naturalmente. Ma questa storia misteriosa dei Nastase mi ha molto colpito, perché questa è una tribù che si è estinta improvvisamente, sembra, non è chiaro se per una malattia o per quale ragione, addirittura prima che la colonizzazione degli europei andasse avanti in Occidente, come diceva la canzone di Guccini, per cercare di allargare il territorio sotto il controllo. Ecco, lei ha qualche storia, diciamo così, misteriosa che ci può raccontare, magica, dei Sioux, così che faccia da contrappunto a questo mistero che abbiamo della tribù dei Nastase? La cultura Sioux si basa per molte cose sul concetto di visione, di illuminazione. Tutte le celebrazioni di cui mi parlano hanno alla base una spiritualità molto intensa. Da una di queste visioni, proprio ieri, mi hanno raccontato che è nata la figura di Bigfoot, la leggenda di questa creatura enorme che ogni tanto i Sioux del luogo ancora dicono di incontrare e vedere. E lei l'ha visto Bigfoot? No, per il momento no, al momento no, mi piacerebbe molto. Ecco, quanto si fermerà lei in questa tribù indiana? 3 settimane complessive, e il patto con gli indiani è di lavorare molto ai loro progetti. In questo momento stiamo costruendo un posto dove potranno effettuare le loro celebrazioni, e in cambio loro ci garantiscono un letto e vitto. Proprio ieri sera ho mangiato per la prima volta nella mia vita il bisonte, il mitico tatanka, offerto da un Sioux, ha un sapore davvero particolare. Una curiosità, lei ha mangiato il bisonte, ma gli farà 2 spaghetti agli indiani per fargli sentire un po' il gusto nostrano o no? Per darmi un ulteriore benvenuto hanno provato a cucinarmi loro. Beh, insomma, per uno di Modena, voglio dire, lei si deve imporre, perché voglio dire, la cucina modenese è una delle migliori d'Italia. 2 lasagne, qualche cosa, cosa gli prepara, cosa gli cucina? Preparerò qualcosa, magari qualcosa di più semplice, sì, credo come una spaghettata potrebbe essere l'ideale. Ma scusi, questi spaghetti invece che gli hanno preparato gli indiani com'erano? Loro non credo che non sentiranno la trasmissione, non erano al massimo, diciamo così. Però sotto la luna vanno bene lo stesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Jane Addiction, storica alternative rock band di Los Angeles, sono apparsi al Terminal 5 di New York. Il concerto diventerà la base per un documentario, il primo anzi documentario musicale in 3D dei Jane Addiction, Classic Girl. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.